bentornati ai podcast di Rivista Militare. Restando ancora in tema di tecnologia, oggi trattiamo un articolo tratto sempre dal numero 3 del 2021, intitolato Tecnologia e nuovi scenari. La fanteria oggi. L'articolo è di Giovanni La Stella. Albert Einstein così rispondeva a una domanda specifica fattagli da un giornalista. Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre. Il contesto che si presentava al grande scienziato rispetto a oggi era piuttosto semplice: due blocchi contrapposti con un potenziale atomico mediamente equivalente che in caso di conflitto si sarebbero reciprocamente annientati. Lo scenario in cui si sviluppano oggi i conflitti ha subito una mutazione ed una evoluzione accelerata dall'impiego massiccio delle tecnologie, che vede da un lato la presenza di attori nuovi che operano al di sotto della soglia dello scontro armato, dall'altro gli stati-nazione che hanno sempre maggiori difficoltà a imporre la propria volontà politica, culturale, tecnologica e strategica. Ne discende che sia fondamentale quindi pensare a un approccio più ampio e che coinvolga tutti i domini: terra, mare, aria, cyber e spazio. L'arma di fanteria, regina delle battaglie, è pienamente coinvolta in questo processo. Una delle ultime radicali rivoluzioni della fanteria è stata la sua meccanizzazione durante il XX secolo, che ha comportato da un lato la variazione del modo di condurre le operazioni, dall'altro una trasformazione epocale della percezione dell'essere soldato. Nel XXI secolo lo spazio, il cyber, la guerra elettronica e le informazioni sono le componenti chiave delle operazioni, indirizzando la selezione di molteplici piattaforme e sistemi. In quest'ottica la difesa da tempo ha avviato il processo di trasformazione dello strumento militare per gestire l'instabilità degli eventi. L'esercito ha avviato a cavallo degli anni 2000 la digitalizzazione della fanteria, un progetto ambizioso che intende impiegare in maniera pervasiva le tecnologie. Il primo vero segno tangibile di tale processo è stata l'introduzione della piattaforma BBM Freccia e del sistema Soldato Futuro, struttura portante di questa nuova fase evolutiva della fanteria. Il BBM Freccia possiede una combinazione di capacità di fuoco e ISR, nonché di protezione e resilienza, che lo rendono idoneo a condurre operazioni continuative in situazioni altamente degradate ed in un contesto congestionato, come ad esempio quello urbano. Non è solo un mezzo di trasporto truppa, come troppo banalmente si tenderebbe a considerarlo a prima vista, ma deve essere pensato e gestito come una piattaforma da combattimento interattiva, capace di condurre e o supportare operazioni nel moderno campo di battaglia. Le unità digitalizzate sono in grado di realizzare un'architettura di comando e controllo integrata, costituita da una rete di sensori sul terreno, una sorta di internet tattico sicuro che garantisca la gestione efficace delle risorse disponibili e una risposta più aderente. La complessità di questo processo decisionale ha bisogno di una leadership consapevole, con conoscenze ampie e profonde, capace di gestire l'automatizzazione, in futuro anche attraverso l'intelligenza artificiale, di confrontare i dati per ricercare momenti decisivi, finestre d'opportunità, nel tempo e nello spazio, e generare un netto vantaggio sul nemico. L'82esimo Reggimento Fanteria Torino è stata la prima unità a essere digitalizzata, divenendo protagonista dell'evoluzione della fanteria, contribuendo a disegnare un nuovo approccio alle operazioni, cambiando anche radicalmente il mindset del personale che a tutti i livelli ha dovuto rapidamente acquisire nuove competenze in un ambito inesplorato. Il primo impulso a questo processo è stato l'impiego in Afghanistan dal 2010 al 2011 in 3 turni operativi condotti dalle 3 compagnie fucilieri impegnate in scorte e convogli, cinturazione, checkpoint, pattugliamento e deterrenza. Il valore aggiunto dato dal mezzo si è concretizzato nella capacità di osservazione, soprattutto notturna, e nell'acquisizione di informazioni, divenendo un sensore fondamentale per l'aggiornamento della situazione dell'area di operazione. Per quanto riguarda il personale, si è vista una naturale evoluzione nella capacità di gestione di nuove tecnologie e nell'operare in ambienti complessi, dominati da ambiguità e caos, per esempio nella gestione del flusso dati, portando ad un aumento della resilienza sia fra i comandanti sia fra gli operatori. Con il processo di digitalizzazione della fanteria si è raccolta una sfida importante per il futuro, ovvero intercettare, comprendere e impiegare quelle tecnologie che possono contribuire al cambiamento del carattere della guerra. Una costante attenzione nell'analisi dei trend tecnologici e geopolitici potrà garantire lo sviluppo di uno strumento militare che possa affrontare efficacemente le sfide, sia in campo nazionale sia nei contesti internazionali.